Incontri di Gianfranco Fabi. Queste sono le note di Ennio Morricone, l'avrete riconosciute, il tema del film Mission, e ci introduce l'incontro di oggi con il professor Alberto Quadriocurzio. Buongiorno professore. Buongiorno. Alberto Quadriocurzio, facciamo un po' una carta d'identità sua, preside dell'Università Cattolica, Facoltà di Scienze Politiche, una lunga carriera accademica nata come? Nata attraverso la grande attrazione che all'inizio, soprattutto nel liceo, nella parte finale, ebbero le scienze storiche e le scienze filosofiche. Attraverso queste due grandi discipline decisi di iscrivermi alla Facoltà di Scienze Politiche, che pur essendo orientata su storia e filosofia non aveva quella connotazione così marcata delle facoltà di lettere e filosofia. E in questa facoltà scoprì l'economia politica, che ahimè al liceo a quel tempo non veniva insegnata, e la scoprì attraverso vari docenti che subito ebbero la mia ammirazione e che divennero poi i miei maestri. E questi docenti, se mi è consentito di fare anche il nome, furono in particolare due, Siro Lombardini e Luigi Pasinetti, e da questi si aggiunse poi il terzo mio maestro, che era un professore di geometria superiore di matematica alla Statale di Milano, ma era anche un grande studioso di filosofia, Carlo Felice Manara, col quale tenni i rapporti per tutta la vita, così come li tenni con Lombardini e Pasinetti. Quindi io mi considero portato all'economia da tre persone, Siro Lombardini, Luigi Pasinetti ed infine da un matematico, Carlo Felice Manara. Ecco, quindi una visione dell'economia che è sì matematica, ma che ha anche un risvolto profondamente umano, profondamente sociale, profondamente politico. Quindi un'economia che ha 360 gradi all'interno della società. Infatti questi docenti avevano una grande sensibilità sociale, tutti e tre, oltre ad essere dei bravissimi economisti, e naturalmente la sensibilità sociale fu sempre marcata nel mio orientamento, e andai ricercando sempre più le radici di questa sensibilità sociale nel pensiero economico italiano soprattutto. E questo mi portò anche a studiare i classici del pensiero economico italiano a partire dalla seconda metà del Settecento, tra cui Cesare Beccaria, Pietro Verri, che erano dei grandi amministratori, ma erano anche molto sensibili a quella che si potrebbe definire l'economia civile. E poi su attraverso Carlo Cattaneo, Luigi Einaudi e poi molti altri, tra cui economisti scomparsi da non molti anni, come Giorgio Fuà, che certamente potrei ascrivere, sia pure in tarda età per quanto mi riguarda, tra i miei maestri, perché fu quello che mi avvicinò di più alle riflessioni sugli spazi territoriali dell'economia italiana, cioè quella che si può definire l'economia di comunità intesa, taluni la intendono, economia distrettuale. Che anche in fondo l'economia reale, l'economia del lavoro, l'economia delle imprese, l'economia delle cose concrete, che non per fare delle differenze è qualcosa però di diverso dall'economia finanziaria che negli ultimi tempi ha provocato qualche danno. Non c'è il minimo dubbio, e questa intonazione di economia sociale da un lato e di economia reale dall'altro lato, se io volessi connotarmi, rappresentano i due elementi più caratterizzanti della mia riflessione e della mia ricerca. Fermo restando che io ho fatto anche una serie di ricerche teoriche a quei tempi piuttosto raffinate, soprattutto sulla scarsità delle risorse naturali e sugli effetti che il progresso tecnico poteva avere nella rimozione dei vincoli di scarsità, così come nella storia è quasi sempre accaduto, almeno fino ad oggi. Non sappiamo se ciò continuerà a accadere, perché oggi le scarsità si configurano anche come scarsità ambientali che sono certamente meno facilmente reversibili. Ecco, indubbiamente però il progresso tecnico in un certo senso e la crescita economica dell'altra possono essere sempre visti come delle soluzioni più che dei problemi, cioè la capacità da parte delle persone di affrontare i problemi e risolverli in maniera costruttiva. Non c'è dubbio che così sia sempre stato, e io penso che la capacità creativa delle persone si esprima anche attraverso la capacità di superare i vincoli di scarsità. Naturalmente tutto ciò non ci esime da quelle antiche virtù che sono quelle della parsimonia, della prudenza, dell'attenzione a non esagerare mai. Probabilmente negli ultimi anni o negli ultimi decenni si è ritenuto che si fosse verificato un fenomeno di perpetua abbondanza, dove tutto si autocreava, dove si poteva sprecare, dove si potevano inventare dei prodotti finanziari dietro i quali non vi era alcunché di economia reale. Ebbene, questa illusione, come abbiamo visto, si è spenta. Incontri. Con queste note di Ennio Morricone riprendiamo il nostro incontro con il professor Alberto Quadriocurzo, preside della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Cattolica di Milano, editorialista del Corriere della Sera. Stavamo parlando nella prima parte un po' dello stato dell'economia attuale, delle illusioni, della crescita continua, di una crescita sfrenata, di una crescita forse un po' troppo esuberante. Prima di tornare però a parlare di economia reale, che è poi la pratica quotidiana del professor Quadriocurzo, vorrei andare un po' anche all'origine della sua famiglia. La sua famiglia è una famiglia storica della Valtellina. Certamente la mia famiglia, per quanto io ne conosca la storia, è radicata in Valtellina dal XII secolo e più o meno è sempre stata lì radicata, anche se le vicende della vita delle persone hanno portato i singoli molto distante da quella terra di tempo in tempo, e ciò nonostante le radici sono state mantenute. Taluno di questi miei familiari antichi fu in Russia, fu in Austria, fu in Francia, fu ovviamente in Svizzera, perché la Valtellina e la Svizzera furono unite per quasi 3 secoli. Ma ciò nonostante io stesso vivo a Milano e ho vissuto molto più distante, e tuttavia sono rimaste le radici in questa piccola valle di montagna. Ecco, la valle di montagna che comunque ha un'economia molto florida, è una valle che ha per esempio 2 banche, entrambe ormai di livello nazionale. Come si, non si come si giustifica, ma quali sono le ragioni di questo successo in fondo della Valtellina? Credo che la ragione fondamentale sia una straordinaria coesione sociale. Nella mia memoria, in quella valle, io non ricordo, ma neanche come memoria storica, momenti di conflitti traumatici. È una valle abituata a ragionare sulle tete, non sull'out-out, con una fortissima solidarietà. E questa forte solidarietà si è anche strinsecata nelle banche popolari cooperative, che hanno avuto i successi che lei descriveva. Dalla valle povera, molto povera, della parte antecedente la Seconda Guerra Mondiale ancora, a un benessere certamente molto diffuso oggi anche per merito di queste 2 banche. Ecco, indubbiamente si può dire che la Valtellina ha un livello di benessere vicino a quello dell'Alto Adige, anche se l'Alto Adige ha goduto di una forma di autonomia che è stata un'autonomia che ha dato delle risorse finanziarie sicuramente aggiuntive. La Valtellina fa parte di una regione e ha tutti i diritti e tutti i doveri delle altre province della Lombardia, eppure è riuscita ad essere appunto una valle ricca, una valle solida. Non c'è dubbio, e questo successo è proprio dovuto a una grande parsimonia, a una grande solidarietà sociale, a un impegno sul lavoro straordinario e, ripeto, a una mancanza di conflittualità che non vuol dire passività, ma che vuol dire consapevolezza di far parte di una stessa comunità che deve essere unita se vuole avere sviluppo. Sviluppo che è stato conquistato faticosamente, basterebbe ricordare le centinaia di chilometri di muretti delle vigne attaccate alle montagne che dimostrano quanta fatica di lavoro ci sia. E però danno un vino che è ormai di qualità riconosciuta ampiamente nel mondo, in cui la qualità diventa un fattore vincente. Questa forse può essere una lezione per un'economia italiana che deve riprendere il sentiero della crescita. Ecco, questa della qualità è veramente l'emblema dell'economia italiana. Molti negli anni passati hanno affermato che l'economia italiana era in crisi, in declino, che doveva abbandonare i suoi settori maturi, e tuttavia non ci si era resi conto che quei settori maturi portavano in tutto il mondo dei prodotti di altissima qualità, il cui valore aggiunto continuava a crescere. E il fatto che il marchio italiano in taluni settori e in taluni prodotti sia dovunque riconosciuto al mondo sta a dimostrare che la creatività italiana, probabilmente dovuta anche alla nostra storia di arte, di tutte le tipologie della creatività umana, ebbene questa nostra storia si è trasfusa poi in prodotti che vanno sui mercati di tutto il mondo. Probabilmente l'identikit dell'Italia è proprio quello, capacità di arte incorporata in prodotti che vanno sui mercati. Ecco, in questa fase dell'economia italiana lei ha parlato di cooperazione come elemento associativo di coesione sociale, elemento di successo. C'è la necessità anche di un'economia che sia concorrenziale, che quindi ci sia un mercato in cui ci si confronti. Come possono andare d'accordo la concorrenza e la cooperazione? Il binomio apparentemente è contraddittorio e tuttavia io credo che se ragioniamo anche e soprattutto per sistemi, la cooperazione si fa all'interno del sistema, la concorrenza si fa tra sistemi. Questo vale soprattutto per l'economia italiana caratterizzata da imprese piccole o piccolo-medie che di per sé non possono e non riescono ad avere una competitività internazionale sufficiente, ma i sistemi territoriali italiani, cosiddetti distretti, possono avere questa competitività internazionale. Così come, a mio avviso, la nascita delle cosiddette imprese del quarto capitalismo, imprese medie italiane o multinazionali flessibili, rappresentano esse stesse delle categorie che possono unificare intorno a sé tante piccole imprese e proiettarle sui mercati internazionali. Quindi, secondo me, il modello italiano è un modello che io chiamo di liberalismo sociale o di liberalismo comunitario, in cui la cooperazione interna ai sistemi di piccole e medie imprese si trasfonde in competitività esterna. Ecco, c'è un'altra dicotomia nei dibattiti attuali, quelle tra le regole e la libertà. Si dice c'è poca libertà economica, c'è bisogno però insieme di più regole, perché in fondo la crisi degli ultimi tempi è stata una crisi determinata anche dalla mancanza o dalla disapplicazione delle regole sui mercati finanziari. Allora, l'economia italiana ha bisogno di più regole, ha bisogno di più libertà o forse ha bisogno di regole più giuste? Ecco, credo che questa sia la risposta. Meno regole, più giuste, più calibrate alla necessità odierna di un sistema economico avanzato, meno improntate alla procedura. In Italia io credo che la gran parte delle regole sia fatta di adempimenti formali più che di adempimenti sostanziali, e gli adempimenti formali costano. Io credo che la semplificazione dovrebbe andare in uno con la riscrittura delle regole, non solo con la cancellatura delle regole esistenti, e queste regole dovrebbero essere più adeguate a quella che è la situazione di un'economia avanzata che vive in un contesto europeo con una normativa europea che è ovviamente predominante ormai su quella nazionale ed insieme vive in un contesto internazionale. Quindi la riscrittura delle regole è fondamentale tanto quanto la semplificazione. Ecco perché in fondo il mito della procedura è anche un alibi poi per fare alcune cose solo in base alle procedure, non in base agli obiettivi. Uno che ha una procedura da seguire rispetta quelle cose e poi dopo succeda quel che succeda si mette il cuore in pace. Forse nell'economia, in un'economia dinamica, c'è bisogno di ragionare più per obiettivi che per procedure. Ecco, io concordo totalmente su questa affermazione. Spesso la procedura diventa l'alibi per aver rispettato la procedura stessa, indipendentemente da quale sarà l'esito. E questo è un tipico procedimento burocratico che non guarda a quello che io chiamo il bene comune, che ovviamente comporta non solo il rispetto delle regole, ma anche il conseguimento degli obiettivi. Ecco, su questo fronte, allora torniamo al discorso che facevamo prima dell'interruzione, un po' sulla cultura economica. Il nostro paese è un paese che ha una grande tradizione di cultura economica, dei grandi economisti del passato. Forse adesso manca un po' di cultura economica di base. Forse anche colpa un po' dell'università. L'università è difficile esprimere per me un giudizio vivendoci dentro e quindi in un certo qual modo, come dire, avendo una qualche tolleranza verso l'università stessa dal momento che ci vivo. Tuttavia è chiaro, anche l'autocritica si può fare. Anche l'autocritica si può fare e tuttavia credo che l'università abbia le sue responsabilità. Probabilmente si è esagerato anche nella frammentazione delle materie, dando a questi nostri studenti più dei ricettari che dei metodi di ragionamento, più come dire, una serie di nozioni più che una capacità critica. Anche ecco, qui forse più una procedura che non un obiettivo, più la conquista del classico titolo di studio, anche qui il valore legale del titolo di studio forse è un elemento su cui discutere, che non raggiungere un obiettivo di una maggiore formazione, di avere dei centri di eccellenza. Esatto. Ecco, questo direi che anche questo è vero, insomma. Purtroppo capita talvolta di incontrare degli studenti che, bravi all'esame, ritornano poi per fare la tesi di laurea e ci si accorge che hanno sostenuto degli esami come meri momenti per conseguire un voto e passare oltre, invece che come un momento conclusivo di un iter formativo che è quello del corso seguito durante tutto un anno. Quindi certamente ci sono questi problemi, anche per l'economia. Naturalmente sull'economia i pareri sono diversi, c'è qualcuno che ritiene che il pensiero economico italiano sia stato e sia tuttora importante, c'è qualcun altro che ritiene che sia invece meno importante, va bene, questi sono punti di vista tutti legittimi. Comunque sul fronte stiamo in conclusione, possiamo comunque avere fiducia sul fatto che abbiamo gli strumenti per affrontare la crisi, abbiamo anche le capacità, abbiamo anche la tradizione, ci manca un po' di buona volontà forse. Io penso di sì, mettere assieme i pezzi, ciascuno dei quali individualmente preso, singolarmente preso, è un pezzo valido. Abbiamo qualche problema nella combinazione di questa scacchiera e sappiamo che da questo punto di vista il nostro paese ha ancora molta strada da fare, ivi compreso il recupero, se mi è consentito una battuta, del dualismo nord-sud, perché il sud ha delle straordinarie risorse intellettuali, umane, capacità creative formidabili e tuttavia non si sviluppa, e questo rimane un problema che va risolto per riaffermare l'unità irrinunciabile del nostro paese. E beh, forse è interessante concludere qui questo suo intervento, un intervento di un valtellinese, di un uomo del profondo nord che richiama appunto l'esigenza di una unitaria visione dell'Italia verso uno sviluppo possibile con l'apporto di tutti, cioè essere un apporto positivo. Io credo che la sua conclusione è la mia conclusione e quindi non vorrei aggiungere altro. Grazie, ringraziamo il professor Quadrio Curzio, preside della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Cattolica di Milano, editorialista del Corriere della Sera, di essere stato con noi questa mattina. Ringraziamo Filippo Reggi in regia, Anita Panizza in redazione. Questa trasmissione può essere ascoltata, come tutte le trasmissioni di Radio 24, dal sito www.radio24.it. Buona domenica a tutti.